Questo giovedì 13 novembre i titoli, il Sole 24 Ore apre sulle banche che gelano le borse. Milano la peggiore, meno 2,9%, questa è la performance negativa ieri a Piazza Affari. Mentre il Corriere della Sera, così l'intesa Renzi-Berlusconi, ed è il primo dei titoli dedicati dopo l'ottavo incontro alla legge elettorale. Anche per Repubblica, Renzi-Berlusconi c'è il patto, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece scrive Renzi-Berlusconi nuovo patto. Mentre il Secolo XIX, Italicum, il sì di Berlusconi. Il Giornale, un pezzo di PD, molla Renzi. La Stampa, intesa Renzi-Berlusconi, resta il nodo sbarramento. Mentre il Quotidiano, il Fatto Quotidiano, sciopero, botte, CGIL e Renzi, ormai ci sono due PD. Questi alcuni dei titoli, come detto, molti declinati sulla politica. Voglio proprio iniziare dalle tensioni alla periferia est di Roma, Tor Sapienza, dove da giorni ci sono scontri ogni sera. Il bilancio è di almeno 14 feriti. Italiani contro stranieri, si può riassumere banalmente così. Tutti i giornali oggi si concentrano su quello che sta succedendo, al rischio di un'implosione sociale. Goffredo Buccini fa uno straordinario articolo a pagina 23 del Corriere della Sera, un'intera pagina per raccontare nei due fortini di Tor Sapienza: qui non si cade, si mena e basta. Pochi denti in bocca, molta rabbia in testa, lo stigma dell'eroina e della miseria. Ci sarà una grande pulizia, vedrai, giurano i vecchi di Tor Sapienza. Terza sera di paure, scrive Buccini, dopo botte e bombe carta, cortei e sassaiole. Ora però ci sono blindati, poliziotti, tute antisommossa, bianchi e neri, sono pronti a scannarsi come in una banlieue, come a Soweto, in questa periferia est di Roma. Le spedizioni degli incappucciati sono partite dai giardinetti strillando viva il Duce, agitando mazze, confuse dentro i cortei di protesta degli abitanti. Bilancio, 14 feriti, tra cui molti poliziotti e un cameraman di Rai 2, e davanti alla scala DD, ogni civico ha lettere e sottolettere, c'è ancora qualche macchia di sangue di martedì. Tutto pare iniziato, almeno gli ultimi scontri, quando un rumeno, uno dei rumeni che si sono accampati in questa zona, avrebbe infastidito una ragazza romana con la coda di capelli bionda, un pitbull al guinzaglio. Quando si usa troppo la locuzione uno di loro, significa che le cose si mettono male. Ora tutti dicono tentato stupro, ma non c'è denuncia. La scintilla è stata quella. Il rumeno è stato pestato, ma poche ore dopo è partito il primo assalto a una onlus che raccoglie e è un centro d'accoglienza con una quarantina di operatori per stranieri. I ragazzi dentro hanno faccette in plumi, ma già segnate anche loro. Vengono da dove si combatte sul serio: Libia, Siria, Egitto. In tutto sono 36 minorenni per legge sotto la tutela del sindaco Marino e 36 adulti rifugiati che parlano a fatica e dicono: sono scappato da una guerra e ne ho trovato un'altra, o ancora meglio che morivo a casa mia. Qui, come scrive Buccini, tutti menano tutti. È la legge di questo inferno che ha 20 identiche succursali tutta attorno alla periferia romana. Un mese fa toccò Corcolle, tra un mese magari Ponte Mammolo, la Romanina. Una tensione che gira come una pallina di roulette e il copione non cambia. Anche il Messaggero dedica due pagine: Roma, aggredito un altro straniero, cacciateli tutti o sarà l'inferno. Il quartiere è blindato ora dalla polizia, la furia dei residenti contro il palazzo che ospita gli immigrati. Il centro degli scontri in via Giorgio Morandi, in questa periferia est. Siamo pronti alla guerriglia civile, queste alcune delle voci raccolte nel reportage del Messaggero. Così Repubblica dedica due pagine: fuori gli stranieri e poi botte. Scontri nella borgata di Tor Sapienza, due pagine nelle quali ci si dedica anche invece sugli scontri, e ce ne siamo occupati varie volte in settimana, legati a Milano alla occupazione o agli sgomberi, ai tentativi di sgombere le case occupate. L'articolo di Piero Colaprico, sempre su Repubblica: occupanti, racket, antagonisti, scoppia la battaglia delle case popolari, da San Siro al Corvetto, 20.000 sfratti da eseguire, 800 palazzi invasi, risse quotidiane, gruppi di cittadini che difendono la legalità. Sembrano resoconti da paesi stranieri, invece è l'Italia, le nostre grandi città, cari ascoltatori. Magari certo non nei centri tutti eleganti o più o meno eleganti. A proposito di Roma, che dobbiamo dire? Ogni giorno porta la pena quotidiana per Ignazio Marino, il sindaco. Adesso sembra quasi un accanimento, ma ieri è stata fotografata ancora la panda rossa di Ignazio Marino in divieto di sosta sotto casa sua. La panda di Marino di nuovo in divieto, così Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera. Certo, c'è un accanimento, è chiaro che adesso i giornalisti, tutti i fotografi vadano a cercare questa panda. È l'unico, vorrei vedere le macchine di tutti i politici. Anch'io questa notte l'ho messa in divieto di sosta, confesso. Che devo fare? Mi è andata bene, non ho preso la multa. Però, insomma, comunque il sindaco Marino con la panda rossa in divieto di sosta, sempre più in bilico. Tra l'altro il Corriere della Sera chiama anche la moglie di Marino, colei che forse era al volante delle famose multe non pagate nella ZTL, Rossana Parisentoldin, padovana di Monselice. Risponde: non voglio essere intervistata, tanto sapete già tutto. E poi aggiunge al Corriere: non avete bisogno del mio aiuto e soprattutto usate le vostre risorse sui giornali per trattare temi più importanti. E clic, chiude il telefono. Tra l'altro il giornale attacca: Marino, sindaco in fuga, beccato con la panda in pieno divieto di sosta. Anche io ho messo la foto sul profilo Twitter. Addirittura Belpietro dedica su Libero l'editoriale di prima pagina a questo tema, col titolo poi a pagina 3: incapace e sfigato. Questo non può rimanere sindaco. Così nei confronti del sindaco di Roma si esprime Libero. Ma udite, udite! Alle 7:27 minuti siamo in grado di dirvi chi ha comprato a spese nostre il vibratore della regione Emilia-Romagna, messo poi a rimborso. Ma tra l'altro messo a rimborso due volte, abbiamo pagato un vibratore 160 euro oppure 80 euro due volte, cioè ha messo a rimborso lo scontrino e la ricevuta del POS pagato col bancomat, due rimborsi. Peraltro, come scrive Libero, ma anche il Quotidiano Nazionale, il vibratore della consigliera Dem in realtà è stato comprato da un ex portaborsa, un ex collaboratore della suddetta consigliera, che si difendeva da due giorni a dire: io non sono mai entrata in un sexy shop. Ha ragione, perché Rosario Genovese, ex componente dello staff della consigliera Rita Moriconi, ha detto: sono stato io. E ovviamente aggiungendo quello che si dice sempre in questi casi: era uno scherzo per un mio amico. Sì, il vibratore a sua insaputa. Sono stato io a comprare il sex toy. Una pagina del Quotidiano Nazionale: il portaborse scagiona la consigliera. Al terzo giorno il mistero è stato risolto. Vi immaginate la consigliera che avrà detto ai suoi collaboratori: oh, se qualcuno è stato, confessi, perché qua vi stanno accusando di aver preso un vibratore, che poi non è l'accusa vera, l'accusa è quella di averlo fatto pagare a tutti noi. In ogni caso, lo comprai per uno scherzo a un amico. Si è scoperto chi ha comprato il vibratore, ma attenzione, perché vince il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Emanuele Lauria, che su Repubblica racconta, pagina 9, l'incredibile vicenda di 43 deputati dell'Assemblea regionale siciliana su 90, quindi circa la metà. Che cosa hanno fatto questi 43 deputati su 90? Nel giro di due anni dall'inizio della legislatura hanno già cambiato partito. Uno su due, trasformismo da record in Sicilia. L'ultima sigla è nata proprio ieri, Sicilia Democratica. L'hanno abbracciata con entusiasmo sei deputati, tre dei quali dell'opposizione. È il 13° gruppo parlamentare in un'assemblea che ha battuto ogni record di trasformismo. Già 43 deputati su 90, quindi quasi uno su due, hanno cambiato casacca in due anni. In tutto sono 62 gli spostamenti, perché molti deputati hanno cambiato casacca più volte in due anni. Per esempio, Alice Anselmo, che oggi è nel movimento Articolo 4, è stata nel listino del presidente Crocetta, poi si è iscritta al gruppo Territorio, ha abbracciato i democratici riformisti e poi l'UDC e ora Articolo 4. Oppure, cosa dire dell'ex sindaco di Ragusa Nello Di Pasquale, che folgorato da Crocetta ha militato finora in tre gruppi diversi e si appresta a entrare nel PD? Quel PD di cui, e l'abbiamo fatto sentire alle 6:30, diceva nei comizi elettorali, questo PD mi fa schifo. Eppure due anni fa entra nel PD, evidentemente per cambiarlo dall'interno, come ci ha suggerito prima Maurizio Tortorella. Per carità, scrive Lauria, Lansemme e Di Pasquale sono in buona compagnia in un'assemblea regionale siciliana in cui la frantumazione politica ha prodotto ben tre gruppi di Forza Italia. E insomma, 43 deputati su 90 hanno già cambiato alcuni più volte casacca alla regione Sicilia. Tenete le mani strette sul volante. Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte. Dall'invenzione della ruota alla rassegna stampa di 24 mattino, Alessandro Milan, l'evoluzione della specie. Beh, insomma, grazie. Mannaggia, che endorsement, caro ascoltatore. Sono francamente emozionato e non merito tutto ciò. Ma io sto meditando una cosa, caro ascoltatore. Invece questa sì, stavo meditando adesso in pubblicità. Chiedevo anche qui a Lorenzo Nespoli, a Peter Bescapea, a dire, io quasi quasi faccio uno sciopero della lettura degli articoli dedicati alla legge elettorale. Anche oggi decine di... Che dite, caro ascoltatore, dovrei farlo? Non so, io leggo qualche titolo. Renzi Berlusconi, accordo a metà. Questa è la stampa. Renzi Berlusconi, intesa solida. Questo è il Sole 24 Ore. Renzi e Berlusconi, il patto è solido, ma è stallo su lista e sbarramento. Questo è il Corriere della Sera, pagina 10. Berlusconi, mi stai simpatico, ma non svendo Forza Italia. Pagina 5 di Libero. Poi c'è ancora il cavaliere di fronte al bivio, un nuovo predellino o la ridotta, mamma mia. Pagina 13 del Corriere della Sera, l'analisi di Francesco Verderami, sì. Ho salvato la faccia e l'unità del partito, con il PD dirò la mia anche sul Quirinale. Pagina 6 di Repubblica, è Berlusconi che parla. Ragazzi, ecco, questi sono i titoli, non voglio addentrarmi oltre. Oggi faccio questo sciopero a metà, anch'io, come la CGIL. Faccio questo sciopero a metà. Questi sono i titoli, si sono visti, l'ottavo incontro, tutto procede, forse non procede. Renzi dice farò la legge elettorale entro la fine dell'anno al Senato e a febbraio alla Camera. E su Repubblica circola già la data delle prossime elezioni, 24 maggio. Anche se Renzi le bolla come fantasia. Basta, per oggi di legge elettorale non parlerò più, promesso. Leggiamo invece gli altri articoli, quelli interessanti che ci sono sui giornali, per esempio la questione dell'asta di Terni. Ieri hanno bloccato l'autostrada per alcune ore gli operai, che rischiano molti esuberi, 291 annunciate azienda siderurgica, racconta Francesco Di Frischia sul Corriere della Sera, pagina 16, protesta l'asta di Terni, autostrada bloccata, intanto Camusso proclama lo sciopero generale il 5 dicembre, ovviamente anche nell'ironia che è scoppiata ieri sui social network a dire ma come il 5 dicembre è un venerdì, poi c'è il 6, il 7, poi l'8, l'Immacolata, certo però... Come giustamente mi hanno scritto e sottolineano vari lavoratori, non è che lo sciopero è una barzelletta, uno perde il giorno di paga e magari per un metalmeccanico perde un giorno di paga, non è mica poca roba. Comunque cioè, si è scatenata l'ironia per la scelta del venerdì. Effettivamente uno sciopero di venerdì non si è mai sentito in Italia, è la prima volta. Comunque il boom della cassa integrazione, questi purtroppo sono i dati dell'INPS, più 19,3%, e che succede ieri dopo l'occupazione dell'autostrada? Sono stati convocati, la convocazione degli operai di Terni era per martedì prossimo, è stata anticipata questa convocazione dal ministro Guidi a oggi. Gli operai paralizzano l'autosole, è il titolo di Repubblica, il governo li convoca, solo così ci ascoltano. Beh, bel messaggio, cari operai, o chi vuole protestare ora sa qual è evidentemente la linea per farsi ascoltare in Italia, bloccare l'autosole ai centinaia di migliaia di cittadini ignari e arrabbiati che si sono beccati ore di code ieri per questa cosa, ma chi se ne frega di queste persone? È il tutti contro tutti. Tra l'altro, a proposito di date, il giornale segna un'altra data. Prima dicevo il 24 maggio, quella delle possibili elezioni dopo la legge elettorale. Invece, vabbè, ho detto legge elettorale, ma non è che ne ho parlato, si poteva dire. Invece c'è questa data, 20 gennaio, che viene raccontata dal giornale a pagina 4. Questa sarebbe la data, secondo Massimiliano Scaffi del giornale, in cui Napolitano lascerà il Quirinale. Non si capisce bene da dove nasca questa convinzione del giornale. Comunque, fate un cerchio sul calendario, giocatevi il numero all'otto, inizia così l'articolo, accettate scommesse, perché stando a quanto raccontano fonti davvero autorevoli, il 20 gennaio dovrebbe essere il giorno in cui Giorgio Napolitano rassegnerà ufficialmente le dimissioni. Questo lo dice il giornale a pagina 4. Mentre, a proposito di cifre, ce n'è un'altra ben diversa sulla quale Palazzo Chigi, il governo, vuole fare un po' luce. Sono i soldi che ci costerà la TAV, i conti della TAV. La Stampa dedica due pagine a questo, Il Sole 24 Ore dedica una pagina, 15, a questo tema, faro di Palazzo Chigi sui conti della TAV. L'intervento dopo l'audizione al Senato dei vertici delle Ferrovie, che hanno confermato l'incertezza delle cifre. Capito? L'incertezza delle cifre. Già Il Sole 24 Ore la scorsa settimana, qualche giorno fa, aveva detto che le cifre erano aumentate di colpo. Il premier Renzi scende in campo sulla Torino-Lione con una telefonata che è arrivata ieri al senatore del PD Stefano Esposito, che sarà tra l'altro il nostro ospite alle 8:15, all'indomani dell'audizione in Commissione Lavori Pubblici al Senato dei vertici delle Ferrovie. Insomma, Palazzo Chigi vuole capire il balletto di cifre che sta girando da settimane intorno al progetto per la tratta internazionale della TAV. Il telefono è squillato alle 7:45 del mattino, racconta Esposito, a capire perché questo balletto di cifre. Quanto costerà questa benedetta TAV? Oltre al Sole 24 Ore, anche La Stampa dedica più due pagine a dire: nel derby con Parigi l'Italia ha speso di più, ma finora ha scavato di meno. Da Roma 1,6 miliardi, ma siamo ancora alle opere preliminari. I lavori per il super tunnel inizieranno solo nel 2016. Insomma, quanto ci costerà questa TAV? Chi lo sa? Neanche Mauro Meazza lo può sapere. Buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro. Lo scopriremo solo vivendo, no? Ovvio, si dice di ovvio. Solito in questi casi. Volevo parlare della legge suprema, la legge. C'è una legge di cui ho capito che non vuoi parlare, di una certa legge, non capisco il... Ho capito, mi stavi paraculando sulla legge elettorale. No, in realtà io volevo parlare della legge sulla concorrenza. Ah, bene, perché ho appreso, leggendo il Sole 24 Ore di questa mattina, che è dal 2009 che dovremmo vararla, però aspettiamo un momento, non prendiamo iniziative precipitose, quindi niente, aspettiamo. Guarda, c'è tutto sul Sole 24 Ore oggi su questa vicenda concorrenza. Tra l'altro dovrebbero arrivare anche norme per, che ne so, le farmacie piuttosto che l'RC auto, insomma tutta una serie di cose non irrilevanti, però non siamo precipitosi, anche perché oggi è giovedì, giusto? Giovedì. Oh, allora da è qui quasi fino... venerdì, ti dico solo. È quasi, beh, insomma, quasi ci manca una giornata. Comunque, vabbè, al netto delle sensazioni, delle percezioni personali, ti dico che ci sono le tasse del giovedì, perché ogni martedì e ogni giovedì sul Sole 24 Ore da qui a fine anno parliamo delle varie imposte che ci toccano, perché ti ricordi che dobbiamo dare 86 miliardi, no? Come no? Te lo sei segnato? La cifra 86, a fianco al fatto che, 86, che dobbiamo morire, me lo segno. Oh, allora, le tasse di questo giovedì ti posso dire sono la cedolare secca sugli affitti e l'IRES-IRAP, il pagamento IRES-IRAP specialmente per le società di comodo. Io non credo che tu abbia società di comodo, puoi avere molti peccati, però non questo. Invece la cedolare secca sugli affitti ti può interessare se hai affittato casa. Tutto nelle pagine di norme. Esattamente. Tributi. Scusa, però Mauro, devo fare una, devo fare una... Allora, ci sono molti che mi scrivono: ma svegliati, come non c'è mai lo sciopero di venerdì? Ma era ironico. Prima ho detto uno sciopero di venerdì, in effetti non si è mai sentito. Signori, ero ironico. Su, sì, tutti no, quelli che mi scrivono, anche... ma è sempre di venerdì, ma dai! Ma vabbè, vabbè. Anche un po' sarcastico, se posso permettermi. Ecco. È stato un po' sarcastico. Guarda, comunque puoi mandare un quesito sulle tasse, sì, del martedì e del giovedì. Sì. www.ilsole24ore.com/, che sarebbe la stanghetta. La stanghetta, un po' obliqua, la stanghetta, detto un po' alla, sì, lombarda, la stanghetta, scrivi pagamenti, così puoi mandare un quesito. Va fino bene, a fine dicembre. Ma te lo posso mandare anche il mercoledì o lunedì o il venerdì? Me lo puoi mandare anche il mercoledì o il venerdì, pure la domenica, guarda, non c'è problema, poi rispondiamo sul Sole 24 Ore. Ho visto che Juncker invece, per andare sempre a parlare di tasse ma fuori dai nostri confini, ha detto che lui non ha fatto niente di sbagliato, uh-huh, insomma, certo, ha ammesso che c'è una certa disarmonia nelle normative fiscali dei paesi, e verrebbe un po' da dire: beh, ben svegliato, caro Juncker, insomma, cioè, fa piacere che lei Meazza, mandiamo subito, per favore, tagliamo quest'audio e mandiamolo alla Commissione Europea. Non lo so, però mi sento in dovere di dirlo, insomma, non è da ieri che c'è questo problemuccio che ogni paese si fa un po' le tasse alla sua maniera. Va bene, io sto guidando perché... con le mani sul volante, come sempre. Esatto, con le mani sul volante, naturalmente. Allora, adesso, siccome mi sono fermato per parlare con te, però adesso vorrei riprendere e quindi ributtarmi a questo punto, traffico. Alessandro Milan, il cavaliere dell'informazione. Wow, grazie. Allora, ieri abbiamo avuto Roberto Saviano e per parlare di questa sentenza, oggi per la prima volta parla Rosaria Capacchione, ex giornalista, oggi deputata del Partito Democratico. E attenzione, perché il suo intervento in un editoriale sul Messaggero è un intervento abbastanza clamoroso. A cominciare dal titolo: caro Saviano, non sono d'accordo, quella sentenza per me è giusta. Di Rosaria Capacchione in prima pagina racconta: poteva la minaccia declamata dall'avvocato Santo Nastaso, perché di minaccia si è trattata, essere una scelta autonoma del penalista e non il frutto di un accordo coi suoi clienti, cioè i boss? La sentenza ha detto che sì, che è possibile, che così è andata. E io, che di quelle minacce sono stata vittima, dico che è altamente probabile. Primo, perché il boss Iovine aveva con l'avvocato suo Santo Nastaso un rapporto fiduciario e da pari grado. Ritengo che il tribunale abbia creduto a Iovine e in fondo all'altro boss Bidognetti, che ha detto di non avere mai conosciuto, se non a cose fatte, il contenuto autentico di quella istanza di legittima suspicione fatta dall'avvocato. E ancora, io che quella vicenda ho vissuto da cronista e da parte del processo, penso che al di là dei tecnicismi giuridici e della capacità di resistenza della decisione in tutte le fasi di giudizio, la storia può essere davvero andata così, e che l'avvocato quel giorno, per difendere i suoi clienti, difese se stesso, che per una volta nel processo più importante non era stato in grado di mantenere le promesse, cioè le promesse di cercare di aggiustare le sentenze. Dunque Rosaria Capacchione, un lungo intervento, non ho letto alcuni stralci, si dissocia da Roberto Saviano e dice: non sono d'accordo con le critiche, quella sentenza per me è giusta. In tutto questo, se avete ancora le mani strette sul volante, sappiate che alla Camera, racconta Franco Bechis di Libero, e sapete, ne abbiamo parlato, ci sono stati tagli, il tetto a 240.000 euro sempre per la Camera, e 800 dipendenti fanno ricorso, azione legale di massa per contrastare il tetto agli stipendi imposto da Renzi, giudicato antisindacale e propagandistico. Secondo le informazioni raccolte da Libero, pagina 1 e pagina 12 continua l'articolo, 802 dipendenti della Camera si sarebbero rivolti a uno specialista, l'avvocato Aldo Sandulli, per formalizzare ricorsi, imbastire azioni legali contro i tagli. messi alla Camera, ai dipendenti della Camera, al tetto da 240.000 euro. Le mani sul volante, potete continuare a tenerle. Tra l'altro, a proposito di Camera, fa sapere Il Giornale che andrà in pensione il funzionario più pagato, è il segretario generale della Camera, un ruolo molto molto importante, delicato. Si tratta di Ugo Zampetti, che secondo le voci è arrivato a accumulare fino a 600.000 euro di stipendio. 600.000 euro l'anno. Per lui ovviamente la scure dei 240.000 euro fa appena in tempo a scattare, forse perché, racconta Dario Casali sul Giornale a pagina 4, a fine anno va in pensione. Dopo 15 anni lascia a fine anno l'incarico da segretario generale della Camera e nel palazzo ovviamente molti sgomitano per la successione. Potete immaginare, d'altronde il titolo è "Grandi manovre alla Camera per il posto da 600.000 euro. Certo, se verrà imposta questa scure da 240.000 euro di tetto, non ci sarà più questi 600.000 euro di stipendio. Però così è. Racconta una storia a Repubblica abbastanza interessante che riguarda il jihadista morto in Siria e risarcito con 60.000 euro per la galera fatta in Italia. È la storia di un guerrigliero, Brahim Gharwan, che è stato ucciso in Siria perché è andato lì a combattere e che in Italia era stato messo in carcere per 8 mesi, poi considerati ingiusta detenzione, e per questo risarcito dallo Stato italiano con 60.000 euro. Ingiusta detenzione, però il dato di fatto è che quando gli dovevano dare questi 60.000 euro hanno scoperto che era andato veramente a fare la guerra santa in Siria ed è morto. Il jihadista morto in Siria, risarcito con 60.000 euro per la galera fatta in Italia. Fu arrestato in Italia per terrorismo, scarcerato e risarcito per ingiusta detenzione e poi però era partito nel frattempo per combattere ed è morto. Trovate moltissimo gli articoli interessanti, forse più interessanti, sulla sonda europea Rosetta, uno studio anche italiano, un orgoglio anche italiano, la sonda partita 10 anni fa e finalmente ieri ha raggiunto la meta, una cometa, davvero un'impresa spaziale notevole. E trovate molti articoli ovunque, ma non c'è tempo per leggere, c'è sempre solo il tempo per dire che la carta costa, cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, va a Nino Materi del Giornale, pagina 20, un'intera pagina per raccontare che Corona è in cella, e questo lo sappiamo, ma sappiate che ci sono i suoi sosia che spopolano in party e discoteche. Una pagina per i sosia di Corona, con la gente che dice, questi sosia dicono, siamo identici a lui e la gente ci chiede l'autografo, io devo parlare con uno che chiede l'autografo a un sosia di Corona, ci devo scambiare due parole o due grugniti, lo devo fare, ve lo giuro, lo devo fare. Ma chi se ne frega!